Carissimi, eccomi anche oggi. È venerdì 22 ottobre e nella prima lettura dell'Eucaristia trovo nell'Apocalisse di San Giovanni, capitolo 3, dal 14 al 22, questa frase: Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. È una di quelle frasi che ti prendono, ti colpiscono, e poiché a me il Signore dà un dono che io condivido con voi, cioè il dono di meditare sulla parola di Dio, ma poi di intrecciarla come se fosse un tessuto col filo che va e il filo che viene, e di farne un tessuto adatto per la vita, io vi voglio spiegare che cosa ha suscitato in me questa parola, che è questione di amore da parte di Dio, correggermi ed educarmi. E allora mi fermo a riflettere quei piccoli o grandi dolori fisici, quei piccoli o meno piccoli fallimenti educativo-pastorali che mi sembra di subire da parte della gente a cui peraltro credo di dedicare la mia vita. Ma poi mi è venuto in mente anche quello che mi ha confidato una giovane mamma, poco più che quarantenne, divorziata, con 3 figli. Eh sì, un sacerdote diventa esperto in umanità. Altro che qualche buon tempone, mi dice, voi volete predicare come si educano i figli e non avete figli. E già gli dico io, perché il medico per curare la tua polmonite se la deve prendere anche lui, vero? Non è che la può studiare e soprattutto la può curare in tanti suoi pazienti. Per esempio questa frase, che è amore il rimproverare ed educare, io la vedo in tantissimi casi, compreso questo caso. Allora, un giorno questa mamma, che praticamente deve tirare su da sola 3 figli, la più grande mettiamo che abbia poco più di 20 anni, e gli altri in scala a scendere, dice: Mamma, io volevo comunicarti che la prossima sera, così, io sto a dormire dal mio ragazzo. Ma guarda che non ti chiedo permesso, te lo sto semplicemente comunicando, perché ormai sono grande, ho 21 anni e devo decidere da sola. La mamma, di solidi impianti educativi, umani, anzitutto, e cristiani, gli dice: Ma io non sono d'accordo, ma io non ti ho mica chiesto il permesso, io te l'ho semplicemente comunicato. E lì a cominciare a fare questioni, ma io non sono d'accordo, così, così, così. Questa giovane mamma mi manda un messaggio su WhatsApp e dice: Don Ambrogio, cosa devo dire? Mi piacerebbe ragionare un po' con te. E io le faccio e le condivido questo pensiero che condivido anche a voi, casomai possa servire anche a voi. Perché riflettendoci, riascoltandolo, mi è sembrato abbastanza illuminato. Ho detto: ma secondo me hai sbagliato. Non perché hai detto che non sei d'accordo, ma per come gliel'hai detto. Tanto lei non cede, perché quando una ragazza ha deciso, poi spaccarle la testa è di coccio e niente da fare, non cede. Se poi è innamorata, piuttosto va a impelagarsi, da ammetterlo dopo, ma non cede. Secondo me avresti potuto o dovuto dire questo: guarda, figlia mia, sediamoci giù. Magari usciamo a mangiare una pizza io e te, in modo che ragioniamo fuori casa, in terreno neutro, da soli, e ragioniamo. Io ti dico perché non sono d'accordo, dopo che tu mi hai detto perché lo fai. Così facendo, cara figlia mia, tu eviti di scontrarti con tua figlia e di fare, tu sei una generala, e di fare la mollacciona che cede. Comincia a farle dire perché, guarda figlia mia, perché vorresti star lì? Ma chiamarla a un perché preciso. A vari perché precisi, non perché sono grande, no, beh, questo è un motivo formale, ma dimmi cosa ti riprometti, cosa desideri, cosa cerchi, cosa vuoi realizzare. E così la costringi benevolmente, maternamente, a focalizzare i suoi veri motivi. E questo servirà molto a lei. Servirà molto a lei perché è facile fare un'affermazione, pam, buttata lì. Ma tu devi educarla e casomai correggerla. E allora devi dire, farle dire queste cose. Quando lei ha terminato, tu dici i tuoi motivi. E questo servirà anche a te, anche a educare te stessa, perché tante volte noi sperimentiamo che mentre spieghiamo agli altri le nostre ragioni, si chiariscono anche per noi stessi e vediamo i punti di forza e i punti di debolezza. Non so se rendo l'idea. Come ho detto queste cose a questa mamma, e lei ha fatto così, lei mi dice: sai, Don Ambrogio, che mi hai dato un grande suggerimento, perché così io ho evitato di litigare, ho evitato di cedere, perché naturalmente lei mi diceva che io ho sempre fatto la soldatessa, perché le sue amiche anche da 14 o 15 anni tornavano alle 4 del mattino, magari bevute, magari fatte, magari. E lei ha sempre ubbidito, ha sempre sottomesso. Adesso però che sono grande voglio fare. E io, dice questa mamma, chiamandola a spiegarsi, le ho fatto capire il valore e nello stesso tempo il disvalore o l'inconsistenza delle sue argomentazioni. Ma il bello è che anch'io, spiegandomi, ho capito quali erano le mie paure, quali erano i valori e quali erano invece le difficoltà con cui io volevo evitare di confrontarmi. Poi abbiamo continuato e ho detto: senti, i tuoi tre figli da una settimana all'altra ti avevano comunicato che dopo averti seguito a messa sempre, da quel tal giorno non sarebbero più venuti a messa. E tu cosa hai fatto? Non mica potevo obbligarli. Hai ragione. Ma non ti sembra che se tu avessi ragionato anche in quell'occasione lì, come ti sto suggerendo adesso, ne avresti avuto dei grandi vantaggi? Primo, loro sarebbero stati chiamati a dire il perché vero. E mentre lo spiegavano a te, si chiarificava anche per loro, nei suoi punti forti e nei suoi punti deboli. E quando tu gli avessi risposto il perché secondo te invece è importante andare a messa, non gli avresti dato quella risposta così insignificante. Per me è importante, perché ha richiamato la loro risposta, allora tu vacci. A noi non dice niente, a noi non dà niente, e dunque non andiamo. E questa mamma concludeva dicendo: è vero, È vero. E allora io concludo, cari amici. Dio, quelli che ama, li corregge e li educa. Non dice che li sgrida, non dice che li punisce, non dice che lascia correre, lascia perdere. E poi nello stesso tempo mi veniva in mente un'altra frase che ho appena commentato in un altro brano, stavolta del Vangelo, in cui dice che Gesù li mandò a due, perché solamente nell'unità, solamente a due è possibile cercare più facilmente la verità. Uno da solo, anche se è mamma, anche se è maggiorenne figlio, può vedere dei miraggi. Solo insieme si può sognare insieme. Ciao amici, io mi auguro che questo, che io considero un vero insegnamento, sia accettabile da voi e non sia andato invece a cercare rane, e sia stato invece un insegnamento. Io ve li dico come mi nascono dentro nel cuore, spero che sia un pochino lo Spirito Santo con la sua sapienza. Ciao, ciao.